che appartengo a un gruppo di vecchi amici e compagni di anni, a dargli, a nome di questo gruppo, l'ultimo saluto, il ringraziamento per tutto quello che ha fatto. Parlare di lui vorrebbe dire fare la storia di quella che è stata la parte migliore del movimento dei lavoratori italiani nel corso di questi ultimi 25 anni. Parlare di lui bisognerebbe parlare a lungo, e lo faremo perché è giusto che tutti sappiano che cosa Gianni Bosio ha rappresentato. È giusto che lo sappiano i suoi concittadini, è giusto che lo sappiano i giovani. Perché la sua attività, Gianni, l'ha sempre tenuta nascosta, si è sempre tenuto nell'ombra, era un promotore, un organizzatore, un suscitatore di energie intellettuali e morali che non voleva mai apparire in prima persona. A quelli che lo hanno conosciuto sanno che cosa ha portato in quest'opera, sanno che debito di gratitudine hanno per lui tutti quelli che ebbero la fortuna di lavorare con lui e tutti i lavoratori italiani, perché in tutta la sua attività Gianni portò questa fede profonda nel movimento dei lavoratori, nella loro capacità di elaborare dei valori intellettuali e morali che dovevano essere il segno di una civiltà nuova. Era questa la ragione del fascino che esercitava su chi gli stava intorno, era questa la ragione per la quale da ogni parte noi ci troviamo oggi qui a ricordarlo e a ringraziarlo. La sua vita si è consumata in un tempo breve, però la sua opera continua e quello che egli ha lasciato intatto è il suo patrimonio di fede, che è un patrimonio che lega tutti noi, che è un patrimonio che noi dobbiamo impegnarci a continuare e a difendere secondo lo spirito che fu suo. E quelli di noi che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui, quelli che hanno lavorato con lui, che lavorano con lui, hanno il dovere di continuare quest'opera. È stata una delle opere più originali e più profonde che si siano svolte in Italia nel corso di questi anni. Il solo modo degno di onorarlo e di ricordarlo e di farlo rivivere è quello di continuare la sua opera.